vento spazza via, paura il tempo, lasciando nostalgia, è la vita, poi continuerà, spinta dal tempo dell'età. Solo i ricordi non se ne vanno via, aiutati da una fotografia, la sua voce sembra ancora dire, è la vita, c'è poco da capire, io cerco di capire, questa volta non sempre nella vita c'è un perché. Si nasce e poi si muore per un niente, a volte si è da soli. Nei sogni della notte, nelle luci delle stelle, il volto del mio vecchio mi dirà, dammi la tua mano, come da bambino ti aiuterò. Sento nei silenzi delle sere qualcosa dentro ed io saprò essere padre dopo essere stato figlio, che cos'è? Stato, non può andare via, rimangono i sorrisi e le malinconie, la vita nei ricordi, poi continuerà, scandita dal tempo e dall'età, anche i sentimenti a farci compagnia, spengono il dolore. Nei momenti di follia, dal passato una voce arriverà, sempre così e così sarà. La vita l'ho capita questa volta, ho avuto un padre Dio, ne so il perché, è nato e non è morto per un niente. Non sono stato solo. E ancora nei ricordi, e sopra la mia stella, con la sua luce sempre, mi dirà, non sono andato via, sono un bambino che c'è in te. Ancora nei silenzi della sera, la voce dentro mi dirà, essere padre dopo essere stato figlio, che cos'è?